Timelapse Festival nasce innanzitutto da una, appunto, pretesa di tempo e di spazio che ci ha portato, come dire, a lottare in tutto quest'anno e mezzo pandemico, proprio nella prospettiva del il tempo che abbiamo vissuto durante, appunto, questa fase qui non è stato un tempo che in realtà, come dire, era nostro, anzi ci è stato sottratto. Questo perché? Perché oltre alla reclusione in casa, quindi con varie zone rosse, lockdown, in quella reclusione lì, in quel periodo lì, comunque sia, ci siamo trovati e trovate a dover semplicemente macinare crediti, macinare esami, macinare lauree. Perché? Perché comunque sia il ricatto delle more o il ricatto della perdita della borsa di studio non si è mai interrotto. E quindi ad oggi ci siamo ritrovati poi dopo un anno e mezzo pensando al passato e dicendo: ma io che cosa ho fatto in questo tempo qui, che appunto sono stato sì sicuramente chiuso a casa, però per il resto a casa mia come ho vissuto? Ecco, non ho vissuto perché sono stato comunque costretto appunto a dare esami, a rispettare le scadenze che non si sono appunto fermate di una virgola, non si sono rallentate di una virgola. E quindi questo festival nasce da questa pretesa e da qui proprio il nome. Il festival si articola con una giornata di presentazione di Zapruder e Zona Rossa, quindi del numero di Zapruder dedicato al G8 di Genova, appunto oggi qui a Split, allo spazio occupato che in tanti e tante ci siamo riappropriati più di un mese fa. Domani ci sarà la seconda giornata, che per l'appunto sarà una giornata in Piazza Verdi, Piazza Letteraria, in cui ci si riapproprierà dello spazio di Piazza Verdi tramite appunto musica, lettura di poesia, lettura di prosa, cultura, banchetti appunto di editoria indipendente. E l'ultima giornata del festival, ovvero dopodomani, sarà nei giardini di Filippo Re con la presentazione di Dialoghi della Pandemia, che quindi è appunto il libro un po' riassuntivo del ciclo dei seminari di Ecologia Politica Network, appunto seminari che da uno sguardo ecologico mettevano a critica, analizzavano il presente pandemico che un anno fa appunto è entrato nelle nostre vite. Con Isa. Se ci racconti un po' qualcosa di questo spazio che avete occupato. Certo, allora Split, che è appunto un po' sulle fila del discorso anche che faceva Fede, sta per Spazio per Liberare il Tempo, proprio nell'ottica di riappropriarsi non solo dello spazio ma di farlo proprio per fermarlo un attimo il tempo e riattraversarlo e riviverlo veramente. Split però è anche, come dire, to split, cioè spaccare, dividere, ma per noi appunto vuol dire in qualche modo una spaccatura in questo presente tutto uguale a se stesso che è stato per tutto l'anno. Nello specifico, per noi questo spazio qua non è neanche soltanto uno spazio fisico, in quanto, come dire, nasce dall'esperienza di Piazza Studio autogestita, che è stato, come dire, un anno di allestimento di aule studio all'aperto per tutta la zona universitaria, che quindi hanno insomma raccolto anche in diversi momenti di inchiesta che abbiamo fatto appunto insieme alle persone che attraversavano quegli spazi all'aperto. Abbiamo colto le stesse sofferenze che poi provavamo noi, le stesse problematiche nei confronti dell'università, nei confronti appunto della gestione dell'emergenza da Covid-19 da parte dell'Unibo, che appunto non ci è sembrato veramente ci lasciasse, ecco, indietro tutte e tutti. Da questa esperienza qui c'è stata poi appunto a un certo punto la necessità condivisa di fare appunto un passetto più avanti, e quindi se ancora dopo un anno nessuno osa neanche chiedere come mai state studiando per strada, perché, qual è il motivo, il movente che vi porta a fare questo, abbiamo deciso che ci saremmo andate a riprendere da sole uno spazio che peraltro faceva parte di un complesso che era stato, come dire, dato a studenti e studentesse negli anni precedenti, ma che già da 2 anni, quindi anche da prima della pandemia, era stato invece svuotato di nuovo di tutte, insomma, delle esperienze che vi erano all'interno, e che quindi ci chiediamo il motivo anche per cui, nonostante la presenza di alcuni spazi, non vengano dati in gestione agli studenti e alle studentesse, quando comunque da diverse parti, ecco, ci sono state invece delle richieste specifiche sugli spazi, su ovviamente anche tutte le altre necessità che abbiamo individuato quest'anno, relative, vabbè, ovviamente al pagamento delle tasse che è rimasto invariato, alle more, al ricatto di CFU, al bando Covid fuffa creato dall'Unibo, insomma tutte quelle storie lì che sappiamo. E proprio per questo, insomma, abbiamo deciso di occupare questo spazio, che insomma anche, come dire, ampliandolo rispetto a com'era prima, e quindi facendo questo, insomma, veramente questa un'esperienza collettiva per cui ci è stato allargato, proprio perché tutta la gente che lo attraversava esprimeva anche la voglia di farlo, e anche perché insomma ha creato anche un gruppo molto, molto bello, molto solido, in cui le persone si sentono responsabili veramente della gestione dello spazio, della proposta di iniziativa, dell'organizzazione organizzazione degli eventi culturali e non solo. Quindi insomma un po' questo è Split.